Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. È duro riprendere a viaggiare in treno dopo i fasti festivi sull'Oriente Express lungo le strade ferrate del nostro paese, ma mi è conforto comunque l'immagine di una donna che, ancora una volta, riesce a dare senso al tempo che scorre sempre uguale lungo le rotaie. Cos'è una donna che immagino che si occupi di qualcosa che ha a che fare con il viaggio, o perlomeno sa trattare con i viaggiatori. L'ho vista molto attenta nel dare risposte alle persone che le domandavano informazioni su quella o l'altra località che si scorgeva al di là del finestrino. Probabilmente il suo lavoro in qualche maniera ha a che fare con il turismo. Probabilmente fa la guida, probabilmente fa l'accompagnatrice, probabilmente è di quelle fantastiche persone che portano in giro per il paese gruppi di turisti illustrandoli quelle che sono le meraviglie del nostro patrimonio culturale e artistico. A me perché interessa? Perché è completamente rivestita di pelle, perché ha uno sguardo di pantera, perché mi guarda continuamente e quindi vuole che attacchi bottone. Perché mi hai detto subito sono Zitella? Perché è un modo di dire che mi diverte molto in Abruzzo e quindi... Sì, in tutto il mondo, ma è dispregiativo, vero? Sì, ma io sono abbastanza autoironica, quindi ci gioco su questa mia condizione. Perché ti dispiace? Ti manca qualcosa? No. Perché sei Zitella allora? Chi può dirlo? Tu perché sei sposato? Figlia mia, perché... Si perde la notte dei tempi, è una scelta. Allora è una scelta lo zitellaggio. Forse è una scelta da parte degli altri, non lo so. Ah beh, è una scelta, ti senti rifiutata? Tanto. Guarda, che cosa fai nella vita? La guida turistica. Quindi vedi un sacco di gente? Tanta. Da tutto il mondo? Da tutto il mondo. Ecco, vedi, non potresti fare questo lavoro se tu avessi un uomo fisso. Sarebbe geloso, dove vai, con chi vai. Ma gli uomini non sono più gelosi. Perché? Non sono più gelosi? No, troppa energia. Cioè, la gelosia presuppone comunque un dare che non penso gli uomini adesso. Ah, questo è interessante. L'uomo non è più geloso perché non ha più voglia di... Non gli conviene. Affermare un possesso. Sì, esatto, perché il possesso poi... Richiede include un certo impegno. E quindi lasciano andare. Ma sì. Ma come consideri un uomo del genere che nemmeno è geloso? Meglio non sparare contro la Croce Rossa. Tu pensa, guarda, che la generazione che ti ha preceduto poteva essere vittima del delitto d'onore. Un uomo geloso poteva ammazzarti, era quasi giustificato dalla legge. Forse per questo sono Zitella, per vivere. Per vivere? Ecco, perché non vuoi trovare uomini veri che siano gelosi e possano ucciderti anche se oggi... Diciamo che correrei questo rischio. La legge non lo permette più però. Mi sa che mi ammazzerebbe lo stesso. Perché non sei un tipo fedele? Penso più o meno, però non metterei la mano sul fuoco. Ecco, è l'occasione che serve, vero? Se c'è l'occasione, nessuno di noi lo è in assoluto, vero? Beh, diciamo che quello che mi salva è che pochi uomini mi piacciono. Ah, quindi sei molto selettiva. Tanto, infatti sono Zitella. Ecco, ma tu però avrai a disposizione, diciamo, perlomeno un campionario da osservare di uomini. Facendo la guida vedrai uomini di tutto il mondo. Io ho un grosso problema, sudcoreani. È che gli uomini di tutto il mondo non mi attraggono, perché mi piace l'uomo italiano. Ah, proprio italiano, roba di casa. Abruzzese, sì. Meglio. No, io vado da Roma in giù. Ah, non ti piace? Già quelli della Cassia li guardo con certo sospetto, troppo a nord. E perché questa differenza dell'uomo del mondo? Non lo so. Spiegamelo, ci sarà un motivo. Generalmente, a parte poche eccezioni, ho avuto l'uomo del nord poco sexy. Ah, ecco, una questione proprio di pelle, sì. No? Sì. Quindi diciamo, luogo è della, un discorso luogo di della, accenti il, la prima, diciamo, il primo segnale di attrattiva è un segnale fisico. Sì. Ma accade, penso, per tutti questo. Poi la gente fa finta, no, ma sai, la stima, la sua intelligenza. No, anche perché io, stando un po' esteta e occupandomi di arte, penso che nell'immagine ci sia una sintesi di quello che sei. Quindi non è vero che c'è questa dicotomia tra fisico e... Mo stai facendo, in... stai facendo la guida, mi parli degli uomini, sì, come fossi dentro un museo. Esatto, beh, d'altra parte, a 50 anni. Dunque... Sì, poi scusami, è dura frequentarti se tu hai una visione apollinea, no, da statua della classicità. No, mediamente, se ma mi... nemmeno se vai in palestra 3 volte a settimana. Se hai la pazienza di seguire la frase e di ascoltare. No, non ho mai pazienza. Vedo. Allora, praticamente l'immagine è una sintesi, quindi non è solamente bellezza, non è detto che sia solamente bellezza apollinea, è una sintesi di quello che sei. Quindi attraverso la visione ti arriva un input, una sintesi di quello che è quella persona. Beh, è vero, fino a un certo punto. Esistono persone bellissime, totalmente idiote. Esistono, no, ho persone detto, molto attenzione, vedi che fai confusione tra immagine e bellezza. L'immagine non è detto che sia per forza bellezza apollinea. Le prime cose che ti ho detto, ma già le hai dimenticate. Vabbè, non so, non erano importanti per me. Quindi capisci, c'è un input che è complessivo. Quindi l'immagine è abbastanza sintetica. Vabbè, fammi degli esempi, visto che stiamo teorizzando. Cioè, di un uomo che mi potrebbe piacere? Descriviamo l'uomo che potrebbe piacerti. Naturalmente attingendo alla tua esperienza. Ma in ti interessa figurata. Da un punto di vista fisico? No, ma che ne so, in generale. Così. Visto che tu dai questo senso di generalità, è il colpo d'occhio, è l'insieme. Vabbè, colpo d'occhio, diciamo, andiamo sull'alto magro. Facciamo così, abbastanza scontato. Nulla a che fare con un modello apollineo, alto magro. Appunto, ma infatti il modello apollineo piace a te, non a me. A me proprio, figurati. Io potrei essere cieco, io vado a naso, pensa un po' quanto siamo diversi. Anche, perché poi per il resto sì, è fondamentale. Vabbè, alto e magro, ti piace alto e magro. Tipico uomo del sud, infatti. Che dice, ti piacciono gli uomini del sud, alto ci e magro al sud, quelli... dove lo trovi? Ci stanno anche alti e magri al sud. Sì, vabbè, ma sarà uno ogni 50. Sul moro, però va bene anche brizzolato. Su sì. Barba o meno non ho particolari preclusioni, sì, insomma. È un gesto d'amore simbolico, molto costa molto poco. Fondamentale è l'intelligenza e l'ironia. Sì. E che non porti giubbetti tipo box, queste cose, boxer. Cioè mutande, questo è importante. No, sulle mutande non c'è problema. No, i boxer, hai detto. No, scusa, mi sono sbagliata. Ah, i bomber, quelli lì. I bomber, ecco. Sì. Ah, sì. Non ti piace il giubbotto? No, odio. Beh, il giubbotto, diciamo, sai 20, una cosa, dai 20 anni in su il giubbotto è un po' triste, onestamente. L'uomo in tuta non mi piace. Beh, al di fuori degli ambienti sportivi, certo, sì. È ridicolo. Certo. Però va molto, no? Vedi tutte queste scritte. Ma le tute d'acetato, con le cose. Con la felpa Fiat, che ne so. Ci sono varie cose... che potrebbero, allora, non deve avere il cravattone largo, quindi diciamo tutti i commercialisti, gli immobiliaristi, gli avvocati, via, c'hanno tutti i cravattoni. Niente. No, gli avvocati no, c'hanno cravatte. Gli avvocati dipende dalla cravatta, sì. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Un'altra cosa che a noi donne non piace tanto è il maschio tirchio, e adesso devo dire che... Il braccino corto. Porca miseria, c'è un imbarazzo quando arriva il momento del conto che... Ma ecco, dimmi questa cosa, mi interessa molto. Sì. Oggi l'uomo sarà un po' perché si appoggia sul fatto che c'è stata questa battaglia ultradecennale per l'emancipazione femminile, siamo uguali anche voi, no? Ma ti pare, vuoi fare il maschio dominatore che paga? Alla fine si sono stufati, gli uomini non mettono più mano al portafoglio. E nelle generazioni sono diventati tirchi, pidocchiosi, sì. Braccino corto. Sì. Oggi un uomo non raramente tira fuori i soldi. Ti posso raccontare una cosa? Una volta al primo incontro andai con questo soggetto a un concerto e abbiamo consumato a Capannelle, abbiamo consumato un hamburger, ti giuro. Un hamburger in due? No, due hamburger in due. E ti giuro, mi ha fatto pagare il panino, il sandwich. Le 7 euro, i 7 euro. Sì, della birra. ovviamente. E come hai detto, facciamo la romana? No, in questi casi io sono una principessa. Io gli avrei pagato. Io pago, non dico niente. Ma è una cosa vigliata. Ma esco da sola. No, veramente, tu non ti paga manco un panino, ma non è per dire, è ridicolo. Esatto. Ma perché per farti venirti a, per la macchina? Farti venire a prendere è impossibile. Sì, uno una volta mi ha proposto di vedersi a, di vederci a Sette Bagni. Perché a Sette Bagni dai lui. Appuntamento a tua sorella. Perché cioè. È comodo per lui? Eh? Sì, comodo. Perché abitava tipo ad Amelia, non so dove. Appuntamento a Sette Bagni, ma neanche poi, Ultimo Tango a Zagarolo proprio. È una strada di puttanoni, adesso con rispetto parlando, cioè, grazie per il complimento. No, sono quelle che battono per strada, è brutto, non puoi andare lì a fare un appuntamento, esatto. Aspetta uno per strada a Sette Bagni. Anche perché si poteva confondere, no, magari ti ferma uno, ti chiede quanto vuoi, brutto, dai, non è bello, dai. E esatto. Quindi questo l'hai mollato. Esatto. E poi? Altri esempi. Andando avanti, la cena naturalmente non se ne parla. Dunque, altri esempi. Senti, ma dimmi una cosa, quando un uomo ti invita a cena, secondo te lo fa perché ci tiene che tu mangi bene, oppure la cena è sempre il preludio per altre cose? Beh, ovvio. Ma sempre così, è normale? Sì. Ma ancora questa cosa antica, ti invito a cena come per dire, poi mi apri le cosce. No, è assurdo. No, c'è stato uno che mi ha invitato a cena e siamo andati in un ristorante molto molto costoso. E beh, ho scelto da me ovviamente, e però assolutamente non ha avuto questa, non questo che secondo sei interesse. Non so che sia antiquato proporre una donna una cena quando poi in realtà l'interesse è sul dopo cena. Perché perdere tempo a mangiare? Poi dovere per forza passare a questo punto direi di sì, effettivamente sì. Ma anche si mangia dopo, scusa, non è meglio vedersi caso il pomeriggio mai. Vedersi il pomeriggio, abbandonarsi a passione e poi si va a mangiare. È che a volte con certi uomini è più sensuale la cena. No, questa è veramente dura. Questa è dura, sì. No. Sì. Parlami di un passaggio traumatico da cena dopo cena. Passaggio traumatico? No, traumatico nel senso che tu capisci l'area e non vuoi assolutamente, cioè. Sì, allora, no, non era cena dopo cena, questo è fantastico. Allora, praticamente stavo con questo e eravamo stati al mare. E un bel pomeriggio stavamo andando a casa mia e io ho detto, ma tu che fai, sali? E lui ha detto, se trovo parcheggio entro mezz'ora sì, se no no. E io a quel punto ho iniziato a contare i minuti sperando che non trovasse parcheggio. L'ha trovato? No, anche perché siccome ero della zona ovviamente non c'era parcheggio. No, gli ho dato i consigli sbagliati, l'ho depistato, prova qui, cioè l'ho, se trovo, l'ho, perché non c'è un garage dalle parti tue. Ma a quel punto non valeva la pena, cioè che faccio, vado a letto con uno che mi dice salgo se trovo parcheggio entro mezz'ora, se no no. Ma questo è veramente pesante. E l'hai più sentito? Ma no. Quindi non aveva nessuna voglia di salire, secondo me. Ma secondo me, ti ripeto, ci stanno grandi problemi da questo punto di vista. Per questo ti ho detto. So che è una frase che a voi donne fa male, ma forse non gli piacevi abbastanza. No, no, non ti preoccupare. Non ho di questi problemi. No, a volte il problema non è questo, cioè diciamo che c'è grande crisi. Ma ecco, tutte le viaggiatrici che incontro su questo treno mi parlano di grande crisi. Sì. E noi donne captiamo abbastanza se il problema è questo o sono altri, e diciamo che alcuni uomini che non hanno questi problemi sono molto richiesti. Ah, diciamo i pochi che ancora si comportano, esatto, come una volta. Cosa fate? Avete diciamo una sorta di sesto senso, indirizzare un segreto, vi passate fra i voi dei 4-5? Beh, no, nel senso che si vede e quindi siamo abbastanza capaci di individuare questi soggetti. Ma io vedo infatti che sono abbastanza generosi le ragazze della tua generazione. Una volta che una si sposa, grazie per ragazze, o trova un fidanzato, le amiche partecipano tutta questa gioia, vanno sempre insieme, escono insieme, si mandano i messaggi su Facebook. Quella che riusciamo finalmente a prendersi un nome, tenerselo, andandoselo a cercare chissà dove, mm-hmm, la trova, diventa la gioia di tutte le altre. Gli racconta tutto, sai, è bello, è bravo, mi fa delle cose che non ho mai pensato nella vita, e tutte godono di questo racconto. Accade anche a te? Beh, sì, abbastanza. Te lo raccontano le amiche? Sì, sì, sì, sì. Beh, io ho varie chat, sono abbastanza. Ah, nelle chat vi raccontate poi, fate le classifiche? Beh, noi diciamo che abbiamo piuttosto chat di lavoro, però anche sì, perché no, insomma, qualche consiglio si dà, no? Sì, no, spiegami, non so nulla, io devo capire qualcosa. Beh, insomma, ci scambiamo indizi vari di comportamenti che potrebbero essere. Quindi una, mettiamo, trova il farlocco di turno, e potrebbe essere potenzialmente anche una bella storia. Chieda potrebbe essere anche bruciato da... Chieda alle altre però come devo comportarmi, e voi consigliate. Esatto. Ma i consigli sono sinceri o tendete a eliminare le rivali e poi buttarvi voi sul... No, noi siamo sincere. No. Quali sono i sintomi? Quali sono i sintomi negativi e positivi? Reperibilità al cellulare, perché presuppone la non reperibilità, una doppia vita. Vabbè, li volete anche single? Ammazza che pretese. Li vogliamo sinceri. Sì, vabbè, un uomo di classe 40-60 come fa a essere single? Scusa. Beh, potrebbe essere divorziato, separato. Peggio ancora. Vedovo. Peggio ancora. Ma vedovo sì, ma sai, vedovi di solito ci rimangono poco in questa condizione. Già, data la richiesta di mercato, già al funerale c'è la fila, scusa, tutte lì vestite di nero, infatti, a consolarlo. Infatti l'idea era questa, di fare delle spedizioni punitive intorno ai tribunali. A questo punto non ci avevo pensato. Sì, no, guardate necrologi sul giornale. Guarderemo con più attenzione i necrologi. Dove leggete vedovo inconsolabile, vi fiondate al funerale. Finora non l'ho mai letto vedovo inconsolabile, però no. Va bene. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Voi dovreste prendere un accordo con le pompe funebri. Tutte le volte che muore una donna con un marito in età... Ma la fascia oraria di questa trasmissione? No, perché? Niente. No, io trovo che sia interessante. Sì, è un bel business. Voi prendete un accordo. Noi siamo delle giovani ragazze... inconsolabili che cercano finalmente l'uomo della loro vita. Abbiamo capito che mediamente gli uomini della generazione a cui possiamo attingere, quindi fascia d'età, a meno che non ci sentiamo poi delle mangiatrici di bambini, diciamo 40-60, che poi dopo sono putrefatti, prima ci ma si va. Ma pure a 40 non è che... Sì, sono troppo vecchi. Alcuni sì. A 40 anni un vecchio? Sì, soprattutto quelli che... Vabbè, ti vuoi buttare sui ragazzini. Soprattutto gli uomini in carriera. Cerchi il toy boy, scusa. No, non cerco nulla, però gli uomini in carriera perdono molto di virilità. Ah, quindi è una questione proprio idraulica. Io pensavo parlassimo di fascino. Tu parli proprio della base. No, noi non siamo così. Della base parlare. Sì, vabbè. Esatto. Vabbè, oggi girano dei farmaci che fanno miracoli. Fosse questo il problema, non è più come una volta. Ma generalmente non è detto che chi abbia questo problema poi lo accetti e faccia ricorso ai farmaci. Ah, è sempre la stessa, gli uomini oggi non funzionano e non vogliono fare rimediare al non funzionamento, quindi nonostante questo continuano a uscire e bleffano capacità che in realtà non hanno più, non hanno mai avuto. Ma guarda, a volte neanche li bleffano. Ma lo dicono prima? No, diciamo che evitano proprio. Se non viene mai il sospetto che non gli possiate piacere a un uomo? Cioè, scusami, perché. No, perché nel momento difendere. In cui c'è questo confronto e l'argomento è diffuso e la problematica è diffusa. Si partire già da questo pregiudizio, rendi conto? No, inibisci assolutamente. Solo. Cioè, crei un'ansia di prestazione che se assolutamente. Se sei lì, dice. Siamo molto fiduciose nelle vostre possibilità. Quindi non hai preso mai in considerazione qualche tuo cliente, le persone delle gite? Mai. Mai, proprio non... No, ma... Nel lavoro sei come una suora proprio. Ma no, non mi interessano gli stranieri, non mi interessano tutti ultra sessantenni, sposati, famiglie. Ma anche io sono ultra sessantenne, cioè stai parlando, cioè mica è proprio gente che fa orrore, capito? No, vabbè, insomma, non mi interessano, ecco. Sono famiglie, pensionati, in viaggi, non... Vabbè, già c'è, cioè, grazie. Quelli con le ciabatte e i calzini, che discorsi. Appunto. Vabbè, allora, quindi come usi il tempo dedicato alla, non dico alla caccia che è brutto, ma perlomeno alla indagine accurata di un possibile compagno, se non di vita, ma perlomeno di momenti di relax? Quando come ci lo vai? Uso questo tempo? Sì, come fai a questo punto, visto che tu lavori all'ufficio, devi andare al sud a cercare l'uomo magro, alto, con capelli neri. No, può succedere, uscendo, una festa, amici di amici. Fra amiche, succede la cena con amiche che porti un amico perché esatto. Sa che quello gli potrebbe piacere quella, come al liceo. Ma sì, certo. Ma ti rendi conto se rinnovato in una generazione oppure ovviamente più avanzata quello che succede ai tempi di scuola. Succede anche di conoscere su Facebook. Ah, ecco. Le cose sì, conosci uno, ti piace, ti mette un po' mi piace, like, vedi le foto. Esatto. Manda la battuta, ti manda il cuoricino. Esatto, sì, adesso succede molto su WhatsApp. Ti manda la melanzana, le cose, capisci, vi vedete. La melanzana? L'emoticon con forma di melanzana. E cosa? È inequivocabile. Dai, su, com'è che cosa? A me non mi sono arrivate mai le melanzane. Allora, vedi, uomini non determinati. Vabbè, probabilmente sì. Senti, vabbè, quando vedi invece persone che hanno fatto scelte diverse, quelle belle coppiette arriveranno, figurati quando li porti a vedere il Colosseo, li vedrai mano nella mano, sì, si fanno il selfie con il braccettino. Sì, no, gli faccio io le foto. E quelli come li vedi te? Li vedo bene. Contenti? Eh sì, dall'esterno sì, non mi posso permettere di giudicare la felicità degli altri. Penso alla mia. Quanto andrai avanti ancora così? Poco, te? Secondo me. E che succede dopo? Qualcuno mi prenderà. Ah beh, quindi allora cerchi anche te alla fine, l'uomo per tutti, la vita. Certo. Eh sì, ma diciamo il tempo in questo non è che favorisca, devo dire. Altro che il t'ho detto anche poco. Che il trentenne magro alto, fra un po' dovrei prendere l'ottantenne col catetere perché Ma un ottantenne ben messo con una casa in centro, perché no? Ah, ecco, ma ha un bel matrimonio di interesse. Tanto interesse. Però guarda che c'è la concorrenza bielorussa in questa, sono delle professioniste, sono mirate in questo. Ma io ho un nome russo. Sì, vabbè, allora c'ho potrei problema. Essere confusa. Vabbè cara, ti auguro in bocca al lupo, buona fortuna al Grazie. Prossimo giro. Ciao. Ciao. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ho già detto più volte che uno dei miei passatempi nei momenti di tedio, nei momenti in cui non incontro persone con le quali scambiarmi impressioni, anzi alle quali rapinare ricordi, impressioni, sensazioni, storie, esperienze, sentimenti, mi diletto nel pensare a quello di cui potrei fare a meno. Immagino che possa accadere un'improvvisa catastrofe cosmica o semplicemente il mio treno possa uscire dalle rotaie, io possa in qualche maniera terminare prima del previsto il mio viaggio, che in fondo è senza meta e senza arrivo. Cosa mi mancherebbe in quei nanosecondi in cui vedo la mia vita correre veloce di fronte ai miei occhi, prima di entrare nel tunnel luminoso dove mi chiameranno il nonno, la nonna, il babbo morto e via dicendo? Beh, molte cose mi mancheranno, di tante altre farei volentieri a meno, come ad esempio dell'altruismo peloso, bigotto, di maniera, tutto esteriorità. Le cose che non rimpiangerò se finisce il mondo. Non pensi mai agli altri. Beato chi potrà un giorno permettersi di rispondere no senza ammettere replica. Ci renderemo mai conto di quanto l'altruismo imposto ci rende ipocriti? Operare per il benessere altrui appaga solo se è fatto, celebrato e sottolineato dal riconoscimento e plauso. L'altro ci gratificava, ma solo quando ci consentiva di farci belli del nostro magnanimo superamento del muro dell'indifferenza che felicemente ci separava dal suo esistere. Io pensavo d'aver in qualche maniera soddisfatto la vostra fame inesauribile di conoscere, di sentire, ascoltare e ascoltare le avventure del nostro fantastico viaggiatore genovese. Vi ho mandato ben due speciali del Trenova sotto le feste in cui lui raccontava e raccontava i suoi fantastici viaggi. Non vi è bastato. Ancora ne volete di più, vi accontento ancora per questa mattina, però ricordatevi che esiste anche altro lungo i viaggi che noi ogni giorno affrontiamo nei nostri treni. Comunque, visto che lo volete e non ne potete più fare a meno, e oramai per voi è una dipendenza, eccovi a voi un'altra storia, già ascoltata probabilmente, ma in fondo si ripete sempre, sempre meravigliosamente innovativo, del nostro viaggiatore genovese. Ma ci sono paesi che non descrive nessuno, nemmeno i giornali, come l'ho detto, la Mauritania, il Suriname, il Belize, dove pensi che il Belize è un posto dove non esiste polizia se non privata, ci sono più banche che cittadini, c'è degli interessi mostruosi, c'è di tutto, cambia valute, turchi, greci. Quando c'è stato lei? Quanto tempo c'è stato? Sono stato a parentesi, perché lì più di tanti giorni non si può stare se non si ha una motivazione seria o uno sponsor. E quindi sono stato la settimana, i 10 giorni il massimo.

Si sente clandestina anche se semplicemente va a fare un pellegrinaggio a Lourdes. Si sente in colpa anche se soltanto magari fa un viaggio di lavoro, perché non ha accanto il marito e perché anche, naturalmente, quel continuo squillare del suo cellulare con l'apparire di foto di teneri e paffutelli pargoletti non fanno altro che ricordarle continuamente la sua primaria funzione di madre. Beh, una casalinga in libera uscita colsi nel treno e una casalinga in libera uscita cercai di interrogare su quelli che fossero gli aspetti foschi della sua vita e naturalmente non me ne rivelò nessuno. È una cosa complicata farsi un viaggetto quando uno ha figli piccoli. Beh, non è facile. Perché? Cioè, perché c'è tutta un'organizzazione da fare. Appunto, chi porta i bambini a scuola, chi li prende, chi li porta a fare sport, chi li riprende, chi li porta dal dentista, dal pediatra. Cioè, tutto, come dire, è molto complicato. Non è facile per una donna andarsene anche 2 giorni così, per ritemprarsi un po'. Bisogna organizzarsi. Ecco, tu hai fatto una scelta, si è fatto un bel viaggetto in treno da sola, hai visto una città che andava di rivedere dopo tanto tempo. Poi mi racconti un attimo l'euforia della libera uscita, i pochi momenti che hai liberi, che ne so, un'ora ogni tanto, un pomeriggio, una mezza giornata, una serata rarissima. Ecco, come passi il tempo? La cosa bella è quando non hai figli è poter improvvisare, cioè è il fatto di non fare un programma, nel senso oggi decido di stare tutto il pomeriggio a leggere un libro piuttosto che prendermi un aperitivo con un'amica, perché i figli, che sono meravigliosi, però sei costretta nella cura dei figli a rispettare una serie di orari, dall'andare a scuola, portarli a scuola la mattina a una certa ora, andarli a riprendere a una certa ora, portarli a fare sport a una certa ora, tornare a casa, fargli fare la doccia, preparare la cena, metterli a letto sempre ad orario, per cui la tua vita è scandita da una serie di orari che sono quelli, soprattutto per chi come me ha dei figli ancora piccini, diciamo, non parliamo di adolescenti, per cui quando riesci a spezzare questa routine il bello è proprio non programmare, cioè decidere all'ultimo momento di, appunto, di andarti a prendere un aperitivo, andare al cinema, non avere orari, che sono quello che un po' più ti ossessiona nella gestione della vita quotidiana con i bambini. Naturalmente a me capitava, quando avevo i figli piccoli, mi trovavo anche da parte nelle stesse condizioni, che le libere uscite rare che accadevano, in realtà erano dei giorni che non facevi niente, le ore non facevi niente, eri talmente preso e colpito dall'euforia di starsene da solo che alla fine facevi esattamente le stesse cose che facevi con i figli. Stavi a casa, mettevi un po' a posto le tue cose, davi un'occhiatina alla televisione, ti facevi una dormitina, non facevi assolutamente nulla. Capita anche a te? Assolutamente sì. Guarda, io ho un marito che devo dire è molto disponibile, tra l'altro se li porta in settimana bianca senza di me, per cui si prende questi 2 ragazzini piccoli più i cugini, carica la macchina e partono. Beh, io in quei giorni in cui rimango sola, in realtà non è che io esca tutte le sere e vada in giro, no, io sto a casa, però con la sensazione di poter fare quello che voglio, quindi con la libertà mentale di guardarmi tutte le puntate di In Treatment su Sky una dopo l'altra, loop, senza avere interruzioni, oppure passare mezzo pomeriggio sul divano a leggere un libro, non fare la spesa, non cucinare, non avere il problema di comprare il latte, i cereali e i biscotti, eccetera. In fondo la libertà è questa, è ritrovare se stessa anche in una dimensione casalinga, senza necessariamente dover andare fuori. Ma tu quanti amici ti sei persa da quando fai la madre? Io sto riflettendo adesso, da quando uno inizia a essere immerso in una situazione familiare che ti porta via del tempo, per vari motivi, per me, a un certo punto gli amici che hanno vite più facilmente distribuibili cominciano a tenerti fuori dalla loro agenda. Ti accorgi che dopo 6 volte che debuca una cena non ti chiamano più, dopo 3 volte che non sei disponibile per un weekend non ti chiamano più, al 3° film che non vai a vedere con gli amici ci vanno da soli. Questo accade anche a te? Guarda, io devo dire sono stata fortunata, nel senso che non li ho proprio persi, perché siamo rimasti in contatto, perché comunque se io che mio marito abbiamo sempre fatto in modo di riuscire a vederli ogni tanto. Però è chiaro che poi ti rendi conto che soprattutto gli amici che non hanno figli hanno una gestione del tempo che è completamente diversa dalla tua, cioè loro magari si vedono alle 10:30, 11 di sera, quando a te viene sonno, perché ovviamente sei abituata a degli orari completamente diversi. Io devo dire, fortunatamente ho mantenuto le vecchie amicizie, anche se ci si vede molto meno rispetto a prima, un po' per stanchezza, un po' per pigrizia e un po' perché c'è una vita, facciamo delle vite diverse non avendo figli che ci accomunano, ecco questo. Quanto tempo passerà che ti potrai rifare un altro viaggetto come questo da sola? Oh, boh, non lo so, però ci vorrà moltissimo, direi. Ci vorrà tanto, però sono felice così. Allora goditelo, ciao. Grazie, ciao. Ed ecco l'audiolettera che mi arriva per una questione indiretta, una questione che riguarda più che altro un gruppo di amiche. Non è una storia di cuore raccontata in prima persona, ma è qualcosa che ha scosso dalla tranquilla e felice e auspicabile tranquillizzante monotonia di una vita di relazioni tra famiglie che sono amiche, l'entrata in gioco di un tanzaniano. Il tanzaniano è una figura simbolica nelle scorribande amorose delle signore in vena di esotismi. Ma se il tanzaniano poi se lo riporta a casa, se il tanzaniano poi deve presentarlo alle amiche come fidanzato, se il tanzaniano poi appare in tante meravigliose e rassicuranti cenette tra padri, madri, bambini, babysitter, badanti, via dicendo, il tanzaniano diventa un problema. E allora cosa accade? Accade che il circolo delle amiche fa di tutto perché il tanzaniano sia espulso. E questo infatti accade. Caro Nicoletti, sono una tranquilla signora di mezza età. Ho una tranquilla vita trascorsa in famiglia e talvolta in attività futili che coinvolgono altre signore di mezza età, esattamente come me, convinte, forse rassegnate, del fatto che questo e non più di questo è il massimo che possiamo aspettarci. Davvero non mi piango addosso. Ho bei figli, un marito che stimo molto, faccio bei viaggi almeno due volte all'anno. Vado a fare puntualmente la settimana bianca e passo un mese al mare. La sera spesso organizzo cene, mi occupo di beneficenza, vado in palestra, seguo corsi di cucina. Insomma, la mia vita è una vita tutto sommato piena. Le mie amiche fanno tutte la mia stessa vita, tutte tranne due, Gaia e Valeria. La prima, Gaia, è l'unica non sposata di noi, è anche l'unica di noi che voi uomini definireste carnalmente appetibile. È bella tirata, non ha mai avuto figli, è bionda e alta, fa un lavoro gratificante. Soprattutto non è sposata e saltella di fiore in fiore con estrema disinvoltura. Noi le vogliamo bene e i nostri mariti sono tutti ormai lontani anni luce dall'idea di poterla considerare pane per i loro denti. La seconda è una di noi, Valeria. Il marito l'ha lasciata anni fa e ha vissuto in stato quasi vedovile nell'allevamento dei tre figli fino a un paio di anni fa. Poi le ha preso la smania di viaggiare con quelle agenzie che organizzano gruppi di persone che non si conoscono tra loro. Durante un viaggio in Tanzania ha conosciuto un uomo del posto, una specie di artista performer che produce opere di arte visuale, non abbiamo capito bene, ma lei è tornata dicendosene innamorata. È tornata a trovarlo più volte e con intensità, te la faccio breve. 6 mesi fa Valeria è tornata con il suo innamorato e se l'è messo in casa. Se l'è messo in casa. La mia introduzione questa volta rivelava il senso della lettera, non era del tutto peregrina. Cosa non si perdona questa donna? D'essersi messa in casa il tanzaniano. Che il tanzaniano poteva essere tollerato comunque nei discorsi fatti sempre alle spalle, in quanto magari, non so, sollucro di una vacanza esotica, ricordo rivelato sottovoce nell'orecchio delle amiche. Ma il tanzaniano che entra in casa, il tanzaniano che diventa il padrone indiscusso di quella casa finora colta da una sorta di casta situazione di astinenza quasi vedovile, beh, a questo punto diventa un problema per tutte. E come risolvono il problema le amiche? Naturalmente seminando zizzania. Eravamo contente per lei, l'abbiamo aiutata il più possibile a farla sentire integrata al nostro gruppo anche con il suo nuovo compagno che è simpatico, espansivo e divertente. Poi è accaduto l'irreparabile. La sera che ci siamo incontrate con Valeria e Gaia per farci gli auguri delle feste con mariti, figli, eccetera, il tanzaniano ha passato la serata in allegrissima conversazione con Gaia, nubile e disinvolta, che pareva dargli molto spago, anche perché avevano entrambi un po' bevuto. Tutti a casa e si passa alla mattina dopo. La seducente Gaia, quasi lusingata, ha cominciato a postare nei nostri WhatsApp un messaggio che il tanzaniano le aveva mandato. Nulla di che, ma abbastanza marpione. Le diceva che era contento di averla conosciuta, che gli sarebbe piaciuto raccontarle del suo paese, insomma, le buttava un amo. Quella naturalmente era totalmente disinteressata, ma non perdeva occasione per dimostrarci la sua supremazia su di noi, povere carampane. Ci siamo consultate e abbiamo deciso di girarlo a Valeria, finora inconsapevole, che lo manteneva in casa da 6 mesi. Nel giro di un'ora lei lo ha cacciato di casa senza remissione, senza se e senza ma. Ora però noi ci sentiamo in colpa. Non avremmo fatto meglio a stare zitte? Il tanzaniano ora gira per la città come un clandestino. Ha documenti regolari e un regolare visto turistico ottenuto quando è entrato in Italia con la nostra amica. Sappiamo che è senza denaro, senza casa e senza punti di riferimento. Insomma, ci fa molta pena e forse abbiamo esagerato. Che possiamo fare per rimediare? Alla fine, che colpa ha questo povero ragazzo se non quella di essere stato gentile? Siamo state noi troppo bacchettone? Beh sì, un po' bacchettone lo siete state, perché in effetti era sproporzionata la vostra indignata reazione di fronte al fatto che magari quella di voi un pochino più espansiva ha dato il suo numero di cellulare al tanzaniano, che il tanzano probabilmente per un dovere di ospitalità tipico alle sue latitudini ha pensato bene di mandare subito un messaggio su WhatsApp a quel numero di cellulare, che il tanzaniano abbia pensato, come accade probabilmente nelle sue tribali e lontane abitudini, che sia normale che in un rapporto di ospitalità anche le donne possano entrare nel novero delle regalie da farsi. Quindi probabilmente il tanzaniano nulla avrà visto di male in mandare un semplice messaggio alla signora per dirle: sono contento che ti piace il mio paese. Malizia semmai, se vogliamo vedere, c'era nell'amica, l'amica, la bella, la conquistatrice che ha voluto coprirvi della sua immensa gloria di femmina maliarda, dicendo che anche il tanzaniano, che la ragazza, che la signora poi si è portata a casa, come probabilmente una speranza di amore duraturo anche in una porzione più larga di vita, possa essere per lei soltanto oggetto di preda. Oggetto di preda, ma semplicemente allucinata per dimostrare alle amiche che lei è superiore alle altre. E il povero tanzaniano è caduto in questa subdola e crudele trappola amorosa. Oggi probabilmente si aggirerà disperato e reietto lungo i viali e le stazioni di qualche città al freddo e al gelo, quando lui soltanto pensava e sperava di poter coronare un sogno d'amore di una splendida donna bianca. Lasciamo perdere Bianca. Pensava di coronare un sogno in amore di una affascinante signora che l'aveva scelto tra tanti come probabile compagno della sua vita, anche abbastanza comoda. Sì, questo diciamo.